persone fragili, emozioni uniche ci fanno martiri. Amanti amanti e ci siamo amati dove capiti. Baby dimmi chiami e dopo balliamo sui tavoli. Siamo sconosciuti ma segni dei due tentacoli addosso e 30 carati al polso. Inutile che fai un casino, non puoi mettermi a posto. Na, na, nel dirupo c'è una luce, aiutami ad andare in fondo. Sono umile e tranquillo ma per te esplodere in come è andata, baby è andata. Siamo persi strada e pezzi in casa. Un'altra settimana chiuso in casa ed è la settima della giornata e non cambia. Tutto torna un karma, la pioggia non bagna ma fortifica l'anima che adesso non è libera. Sai che qui la situazione è critica, yeah, yeah, yeah. Ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente. Quello che pensa la gente, ma non di te. Ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente. Quello che pensa la gente, ma non il tuo di te. Una bussola, con te mi sento l'unica. Non sento chi giudica. L'allora è una vita ruvida ed è proprio una nuvola a guidarci un po' via da qua. Con te lascio che l'aria ci porti in un'altra città. Ma per me, se ci fosse concesso un momento e se fosse il pretesto perfetto per mandare tutto all'inferno, io lo farei con te. Ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente. Quello che pensa la gente, ma non di te. Ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa.